qualità della vita, la qualità della noia, la qualità della scuola, la qualità del lavoro, la qualità della vita, la qualità della noia, la qualità della politica, la qualità del nostro amore. La qualità della vita, la qualità della noia, la qualità della partita, la qualità della discoteca, la qualità della musica, la qualità.